finisce la lezione. Sei solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere distintivo, sei solo chiacchiere distintivo. Cerchiamo di capire se adesso va in onda il microfono o meno, perché sennò siamo veramente nei guai. Sta andando? Perfetto. Vabbè, si era incartato il tutto. Comunque ci siamo nella migliore delle tradizioni, anche da remoto. Se possiamo fare una cazzata in studio, la facciamo ancora più grande da casa, ovviamente. No, da casa no, non, da remoto. Da remoto. Vabbè, siccome abbiamo perso praticamente un sacco di tempo, poi chiariremo meglio fuori della sigla. Comunque, Radio Ondaro 87.9 della mutazione di frequenza della banda romana e laziale, www.ondarossa.info il sito, la campagna di radio abbonamento 30 per 1000 è ancora in pieno vigore, la prolungheremo anche dopo il 24 di maggio, data in cui era prevista, come anche negli scorsi anni e nelle scorse edizioni della campagna di radioabbonamento, la chiusura con la festa della radio. Ci allunghiamo perché la radio non ha raggiunto ancora, a meno che non arriverà il grande Soros, sottoscrittore, quello, capito, che dice: ve faccio svoltare la vita con la valigetta piena di dollari. la cosa non è successa, quindi ci allunghiamo perché dicevamo la radio deve vivere un anno intero, è uno strumento, abbiamo notato anche in questo periodo, importantissimo di informazione e comunicazione fra compagni, fra movimenti, fra situazioni. Quindi la dobbiamo sostenere, 30 per 1000, 30 euro per 1000 di noi, vuol dire un anno di Radio Onda Rossa, trovate tutto sul sito www.ondarossa.info, in alto c'è il banner, andate a vedere quello che c'è scritto dentro e insomma informatevi e sottoscrivete per la radio. Ondarossa@ondarossa.info, la mail della redazione 25oclock@ondarossa.info per maltrattare il sottoscritto. 06491750, tanto non vi rispondiamo. E poi pian pianino diremo altre cose, diremo tutto, per ora andiamo con Greg Dulli, ex voce degli Afghan Whigs e Ghost, indovinate a chi la mandiamo questa. I like when she getting out of me, back in December and I'm free, back in the city. Impiccio sulla sigla iniziale, abbiamo perso un po' di tempo per darvi le coordinate, comunque è Ghost ovviamente, è perché questa sera siamo in due anche da remoto e c'è appunto il fantasma, dopo non so se sicuramente ha collaborato alla stesura della dopo magari un salutino ve lo fa con tranquillità, con calma, o magari anche di più. No vabbè, ma lo faccio subito il saluto, insomma, visto che sono stato nominato. Buonasera a tutte e tutti, ciao Radio Bellissima, e qui facciamo la trasmissione da remoto, intanto l'atmosfera giusta la stiamo creando e iniziamo questo viaggio di 25 o'clock questa sera. Dai, Tra l'altro penso che sorseggiando Mirto Casareccio non sarà mai fatta la cosa, no? Sempre biracce del Bangla, insomma. Le birracce solide, insomma, che ti devastano lo stomaco, insomma, ce ne sono state diverse di puntate di 25 o'clock abbastanza impegnative dal punto di vista gastrico. Vabbè, dicevamo, Greg Dooley, questo lavoro Random Desire, edito nel 2020, Greg Dooley, voce degli Afghan Whigs. Volevamo mandare gli Afghan Whigs stasera, poi ci siamo dimenticati di mettere la traccia in lista, o la lista in traccia, per cui abbiamo sentito A Ghost e questa Loch Ness da Random Desire, appunto, del 2020. Certo, ci si poteva aspettare di più, però ci stanno degli spunti interessanti. Una produzione lo-fi, potremmo tranquillamente definire. E però ci serve, perché poi oggi abbiamo preso abbastanza questa piega, anche non preparandola, poi alla fine ci sta del folk, ci stanno delle ballate, ci stanno così dei suoni tranquilli e notturni allo stesso tempo. Quindi anche il Greg Dooley per cominciare. Ultima produzione, magari ce lo dirà meglio il Fantasma se ha più nozioni di noi, per quanto riguarda il nostro pat, e usiamo il nostro a ragion veduta, insomma abbiamo un particolare affetto e vicinanza e sintonia con lui. Dall'ultimo lavoro, ultimo EP pat, adesso ascoltiamo Gli Indifferenti. Dipinto a mano di una vecchia città arrampicata sul lago. Ci sei cresciuta a ridosso, e Dio se ti si legge in faccia. Ma tu non dovresti vivere che qui. Siete fatti così, conservate il vostro vivere infame mentre fate la fame, rassegnate a morire. 12 mesi come 12 clan a cui baciate la mano, 12 preti e nemmeno una stele per un partigiano. Sarà perché tu non hai parteggiato mai, ed il motivo lo sai, che fosse il duce, il principe o il papa, stare a braghe calate è tutto quello che sai. Sarà la noia che si respira in questa notte senza foschia. La mia speranza è già partita insieme, l'ultimo aerone è volato via. La fila degli operai sconfitti arriva in mezzo alla strada. Per un lavoro svendono i parenti all'UDC cristiana. Questo qui è il trionfo dell'indifferenza, del qualunquismo impenitente, dei pizzicotti dati sotto banco per non dare nell'occhio, per sorridere sempre. È una bestemmia tirata piano, tra una novena e un'Ave Maria. è un'intifada di colpi dietro la schiena che poi ti volti, scappati via. Discorsi per il telegiornale, perché non gli apri la porta di casa e non li fai entrare. Fagli vedere la famiglia italiana col cagnolino e la badante moldava. Mandali via prima che vedano il sangue, i lividi ed il vino dietro questo teatrino. Un Michele c'ha una rivoltella carica nella sua mano, e sua sorella una valigia in corridoio da portare lontano. Ci vuole più fegato a cambiare la vita che ad osservarla scorrere finché non è finita. Ed ogni naturale istinto guerriero si estingue come un cero in questo vecchio cimitero. Gramsci li odiava gli indifferenti, ringrazio Dio che non sia nato qui, dove il limite ultimo di nostra vita non è la morte ma il venerdì. Tratto la settimana dall'ultimo lavoro di Pat, un EP uscito su CD dal titolo Small Town Boy. EP uscito in digipack di 4 tracce abbinate ad un racconto in un booklet di 40 pagine con grafiche ed illustrazioni del caro Alessandro Palmieri. Binario 2 uscito per Tac Records, tu non hai e targato Folk Beat Vendetta. E quindi per ottenerlo per recuperarlo. Stretto ed il mondo è grande, io non ho mai creduto per un istante che quel tempo lì dello scalo a contare. E quindi cercatelo attraverso Tac Record. Sarebbe stato per sempre, per sempre, per sempre. Attraverso l'indirizzo email tacrecords@gmail.com. Io so che non tornerai mai. Oppure scrivendo a Folk Beat Vendetta. Mai qui, che no. O contattando direttamente. No, non tornerai. L'amico Pat. Tu non ritornerai. E noi sempre dell'EP Small Town Boy ci andiamo ad ascoltare 5 minuti di rivoluzione. Dai, yeah. Ho una scatola di cartone blu, c'è scritto Forza Roma, me l'hai data tu. 16 anni ed io ci ragiono già da un po' e voglio crederci che sta storia qui, che sia meglio di così per me, che bene o male, ho fatto tutto come dite voi. Io voglio 5 minuti di rivoluzione per la mia generazione, la mia generazione. Di panorama Trinidad, se dà la testa al muro ci arriva di sicuro, e i curricula consegnati 2 anni fa, e non ci crede più ormai che sia possibile correre oltre la linea del treno, cambiare pelle per davvero, e sogna così forte di scomparire che potrebbe pure morire. Come dite voi, io voglio 5 minuti di rivoluzione, solo 5 minuti di rivoluzione per la mia generazione, la mia generazione. E rimaniamo sempre in casa Folk Beat Vendetta, perché è uscito da pochissimo, credo proprio ieri, il primo lavoro solista di Rocker Ritz. Uscito in digitale. E quindi lo potete trovare sulla pagina di Bandcamp di Folk Beat Vendetta. Metterti le ali, ma sei uno stupido idiota, uno stupido perdente, e lo sai. Questa però ce la risentiamo da capo. Corso del fiume, ma tu non cambi mai. Rocker Ritz all'incrocio, no.

and 16 I started rolling. Out in the West, no money, no home. Direi esame super superato, super superato. Mamma mia, già ci abbiamo a zeppo qui. Eccellente. Risultato quello di Roger Ritz, stavamo apprezzando ora e diffondendo, credo già, no? Online per chi apprezza questo tipo di ascolti. E noi andiamo a ripresentare una delle produzioni che stiamo scoprendo in queste settimane. Si tratta di Billy Bragg e Joe Henry, che hanno registrato questo disco in giro per le stazioni. L'altra settimana avevamo detto anche il numero dei chilometri che avevano fatto, perché avevamo addirittura aperto una finestra, diciamo, di un browser e leggevamo, capite, le cose spaziali che si possono fare. Comunque, tanti chilometri, tante stazioni dal centro degli Stati Uniti, dalle grandi pianure fino al Texas, fino alla California. Le varie tappe sono contrassegnate da una traccia nelle diverse stazioni che hanno affrontato, suonando proprio plugin, come si dice, no? Plug, come si dice? Unplugged. Sì, proprio da casa niente, è proprio una roba sbragatissimo. Number 3 come in the past. Vabbè, io ve la rimando a capo, Billy Bragg e Joe Henry, Railroading on the Great Ride, tratto dal disco che si chiama Shine a Light. Eccoli qua, da capo. And 16 I started rolling out in the West, no money, no home. And I went drifting along with the tide. I landed on the Great Divide, railroading on the Great. Nothing around me but Rockies and sky. There you'll find me as years roll by, railroading on the Great Divide. Ask any old timer from in the land, the long steel rail and the short cross tie that I laid across the Great Divide, railroading on the Great Divide. Nothing around me but Rockies and sky. As years roll by, railroading on the Great Divide. As I look out across the breeze, number 3 come in the past is on wheels. Through old Laramie sails across the Great Divide, railroading on the Great Divide. Nothing around me but Rockies and Let me as years roll by, railroading on the great divide. One, two, a one, a two, three, kick. I'm gonna go out dancing every night. I'm gonna see. Vabbè, era 4, 5, 6 anni che non lo riascoltavamo in realtà questo lavoro che abbiamo mandato in lungo e in largo, specie quando Joe Strummer terminò il suo passaggio insieme a noi. E beh, insomma, ci cascava proprio dentro questa puntata molto svaccata. Silver and gold. La traccia che conclude lo Streetcore, ultimo disco per quanto riguarda Joe Strummer, con The Mescaleros. Traccia conclusiva si chiama Silver and Gold e noi ascoltiamo da capo. 25 o'clock, Radio Onda Rossa, 87.9 della modulazione di frequenza. Three, kick! I'm gonna go out dancing every night. I'm gonna see all the city lights. I'm do everything silver and gold. I got to hurry up before I grow too old. I'm gonna take a trip around the world. I'm gonna kiss all the pretty girls. I'm do everything silver and gold. And I got to hurry up before I grow too old. I know it's wrong. Hope I'm forgiven before I'm gone. It'll take a lot of prayers to save my soul. And I got to hurry up before I grow too old. I'm gonna take a trip around the world. Gonna kiss all the pretty girls. Gonna do everything silver and gold. And I got to hurry up before I go too old. Yeah, I'm gonna go out dancing every night. I'm gonna see all y'all city lights. I'm gonna do everything silver and gold. And I got to hurry up before I go too old. Okay, that's a take. Allora, mentre questo che va sotto la mia voce è un pezzo degli Angels. Dall'Australia. Ed è uno dei pezzi un po' che ci possono venire in mente in questi giorni. Am I ever gonna see your face again? Vedrò la tua faccia di nuovo. da capo di Angels a Radio Onda Rossa. Dimenticato il pezzo, lo dedichiamo a Bago e tutti gli agropunks. E al Conte, che dicevamo insomma potrà apprezzare queste sonorità, che poi insomma stavamo un po' descrivendo. Come si possono abbinare certe sonorità ai mezzi di locomozione? E allora alcuni brani sono più adatti al treno, altri per i viaggi in macchina di notte. Quella dei Angels un po' che ne so, farsi la Tiburtina alle 6 di mattina. Quando la giornata è ancora troppo lunga. E insomma te lo chiedi, am I ever gonna see your face again? Già sotto va Roy Harper. Jump out of my anche questa, anche questo pezzo parla un po' del ritrovarsi, del ricercarsi. Di fare di tutto, insomma, quello che è il nostro potere per non diventare fantasmi evanescenti. Anche questa da capo, Hope. Yeah. casa, in fondo alla periferia. Allora, Pat, dai, ci serviva anche per interludio, perché passiamo ad altro, come si suol dire. E quando provo a dargli un senso, la scorsa puntata abbiamo giocato un po' e confondo con il complotto e con la fantascienza. Sarà che stiamo bene. E ci siamo serviti per così la parte più elaborata del trip complotto trip virus. E così di uno splendido lavoro di pura psichedelia tantan fatto da che è bellissimo T.I. Seagal e White Fence. Stiamo bene qui, credo che si dica così, Fence. Lavoro per uno che non sa nemmeno il nome mio. E quindi producendo un loop di Lieti Blu 14 minuti e 24 secondi, appunto, con un paio di sample, appunto, di T.I. Seagal e White Fence, e poi con gli Oneida. Sarà che e ovviamente una puntata tutto il tempo di quella splendida serie che era Spazio 1999. E lo sai, ci sono giorni in cui è bellissimo. Sarà che ne è uscito questo psicomplotto virus. E non mi dire che è tutto qui. Più autoproduzioni di così, certo, rubando qua e là, più che autoproduzioni sono crescere poi morire così. Dei rubacchiamenti, speriamo che nessuno se ne senta offeso di questo, ma crediamo di no. Cosa sta esplodendo mentre il mondo pensa ai fatti? Anzi, se volete, quando volete, producete i vostri trip virus, inoltrate quel che avete prodotto sulle mail, sulla mail 25clock@chiacciolandrossa.info. Saremo ben lieti di proporre quanto avete prodotto. E lo sai, ci sono giorni, no, che poi sono anche i giorni che insomma le band cominciano piano piano a rivedersi, a riniziare a provare. Se volete mandarci anche qualche registrazione così registrata in diretta, mandatecela, la passeremo molto volentieri. Psai complotto trip virus. molecolare molto raffinata, comandante. Sono per la mente di una psicomiana. È successo qualcosa alla struttura aliena. Sono per la mente di una psicomiana. È successo qualcosa alla struttura aliena. È successo qualcosa alla struttura aliena. La stanno controllando i circuiti. La stanno controllando i circuiti. La stanno controllando i circuiti. Temperatura in aumento. Temperatura in aumento. È successo qualcosa alla struttura aliena. Temperatura in aumento. La catena molecolare è molto raffinata, comandante. Male. Molto male. Dia a Ellen che siamo in emergenza. Può bere, la quarantena è finita. Non poteva mancare la tappa settimanale con gli Idols, gruppo Brit- britannico, questa è l'uscita loro, Brutalism, nel 2017, l'esordio discografico, perché la band fosse attiva ben dal 2009. È un po' il punk nuovo britannico, molto potente. Non sentivamo questo tipo di potenza da un bel po' di tempo. Salvo ovviamente quello che sta andando sull'altro lettore di tracce. Idols, che hanno prodotto anche nel 2018, poi c'è un EP nel 2019, insomma, la produzione di questa band di compagni, poi, perché insomma hanno un'attitudine particolare nel registrare quelle che erano le, che sono le maggiori tensioni delle nostre società fino a questa qualche mese fa, insomma, quando l'emigrazione sembrava fosse il problema ineluttabile, eccetera. Va bene, noi nel frattempo di là stiamo sentendo i Neurosis, io direi di mandarli da capo, perché questa Obsequious Obsolescence, tutti obs. Il lavoro è uscito nel 2017, ma se non andiamo errati, l'originale The World is Slow è del 1989. Neurosis, Obsequious Obsolescence, da capo. Allora, così in sequenza, come abbiamo già fatto in questi in queste settimane precedenti, ma le sonorità si associano amabilmente. Quindi Six Organ of Amitans. E la loro Black Tea. Lavoro anche questo uscito nel 2020. Invece sotto la nostra voce, che rimanderemo da capo perché è veramente una di quelle traccione per quest'ora, per queste sonorità, per questi momenti, per questi tempi, vi rimette un po' in pace con tutto quello che vi fa esplodere dentro. Questa è The Bittersweet Calexico, uscita del 2019, che si chiamava Years to Burn. Calexico. mom laughed like she never had. She dug a heel deep into the mountainside. You know Grace, who gave me back a golden ring. She always knew what was hers and what was mine. I was only stumbling through a garden gate. Trains leave Tennessee moaning as they roll away. Rubbing out his evil eye. Last I heard, he saw it all for what it was. There are dreams wild enough to pass the time. And again, there's all we could trade for a hiding place. Trains leave Tennessee moaning as they roll away. Dead bird wants the wings it can't recall. A weak preacher standing with a song to sing. Who knows Grace? Staring at a kitchen fire. That's the way I told her I would give her anything. Anything wasn't enough to make her stay. Trains leave Tennessee moaning as they roll. Allora dai, poi ricominciamo da capo e magari passiamo anche il microfono. Solo due parole su Calexico, in questo lavoro insieme a Aaron Wine, che è questo cantautore sempre. Immaginiamo di quel confine, largo confine fra la California e il Messico. Per dire quanto siamo affascinati in questo periodo, in questa fase, dai suoni dei Calexico, che mettiamo al vertice delle nostre preferenze da un po' di tempo a questa parte. Questo forse proprio non ve ne frega niente di quelle che sono le nostre preferenze, però noi passiamo un secondo il microfono per presentare questa roba qui, che rinnova anche un fasto di tanti anni fa, quando si abbassavano le luci e si parlava di un personaggio particolare. Ma nel dettaglio, vabbè, ci incuriosiva molto un aspetto, come dire, estetico di questo personaggio, un gusto per... Però il dettaglio erano queste mutande di metallo, no? Cioè, a un certo punto, tipo, non so su quale disco, insomma, ma su diversi dischi in realtà, cioè, poi è stato proprio un filone della mutanda di metallo. Qui non erano più sobri, nel 95 erano più sobri, e vabbè, è una tradizione di 25 O'Clock che è passare un pezzo dei Master Magnet molto di frequente, e ci ascoltiamo Blow Em Off da capo. Dai. Don't always apply. When that kid goes home, he always goes alone. He hides in the machine and always stays 14. Well, there's really nothing wrong with the plan. He goes to sleep at night and holds his own hand. There could be an end. Who brings you back when you've gone, gone, gone? Who keeps saying your prayers when you've blown them off? Who keeps alive the concept of mine?

No, l'abbiamo rimandato da capo perché non ci siamo riusciti a interrompere questa doppia sequenza di pianoforte. Abbiamo iniziato con il distorto Caribou, producer canadese, DJ canadese, che ha la sua Sunnest Time da Suddenly, che è il disco del 2020 per quanto riguarda Caribou. E poi DJ Shadow, la sua Firestorm, invece del doppio, uscito nel 2019, Our Pathetic Cage. Questo è il disco primo, il disco basato appunto sulla produzione strumentale. Il secondo disco invece è con l'ausilio di vari hip hoppers e DJ. E dicevamo che probabilmente in futuro plagieremo il plagiatore, chissà che ne avremo il tempo e la voglia. Invitiamo comunque tutte e tutte voi, come abbiamo già più volte detto, ad aiutarci, e non solo finanziariamente per quanto riguarda la radio con la campagna di radioabbonamento, ma anche attraverso le vostre produzioni che ci potete inviare in radio, o più specificatamente nei vari contatti, insomma, che ci sono rispetto alle trasmissioni, 25oclock@ondarossa.info, se volete, così col vecchio metodo della mail. Vabbè, invece noi questa volta interrompiamo e andiamo a un altro lavoro di quelli che ci stiamo ripetendo, 2019, Sleep for More. Ancora dalla suburbia delle città britanniche, Eton Alive si chiama il disco, questa è la loro subtraction, quindi eccola qua, 25oclock Radio Onda Rossa. Subtraction. Anxious and finding ways. Subtraction must be ways to action. The calm on a mind, our minds on place, and no pre-doom. I'm sitting in the park, eating, laughing with your wife and kids, with an head full of blood, bloody splattered. Hell vision, this new decade is circumcision on your eyes. Message that, find a way to get inside. Come morning, noon or night, I'm like an ear blade, I like to keep my hand in tight. Let it dry, let it find the things that don't make you feel alright. Subtraction, minus life, blue eyes, circumcised. Subtraction, minus life, blue eyes, circumcised. Online, blah blah, gotta sell tickets online, blah blah. Quick, get the link, copy across all four platforms. 9 a.m, then around tea time, send it again. Quick, get the link in, paste and familiarise with your friends. Use human language, not that robotic PR bot. Bot bot, dead plankton, paying ghost screens, and too many wankers in our books. It's not enough anymore to want change. You have to do change, but the only change I like sits in my pocket. I'm a consumer, I'm the system's rocket, and I like my launcher. I'm pod yoga, I'm sober, I'm fixed, I'm fixed. I'm pod yoga, I'm sober, I'm fixed, I'm fixed. Subtraction, minus life, blue eyes, circumcised. Subtraction, minus life, blue eyes, circumcised. Subtraction, minus life, blue eyes, circumcised. Subtraction, minus life, blue eyes, circumcised. Brush the body. is ever dead in your street. Rush the barn is ever dead in your street. Subtraction. Rush the barn is ever dead in your street. Rush the barn is ever dead in your street. Subtraction. Subtraction. Continuiamo pure per un bel pezzo della notte. Vi piacerebbe? Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza della banda romana laziale, invece ci siamo arrivati alla fine. A meno che non vogliono sentire il mix, quello ormai di 3, 4, 5 settimane fa, Allarmismi e Panico. Lo mettiamo? Sì, sì, vabbè, allora dai, questo qui lo rimandiamo a zero e vai. Allarmismi e panico. Gli esperti. agli esperti, allarmismi e panico, allarmismi e panico, agli esperti, una task force, agli esperti, una task force, allarmismi e panico, agli esperti, una task force, promiscuità di uomini e animali. Agli esperti, promiscuità di uomini e animali. Agli esperti, promiscuità di uomini e animali. Agli esperti, promiscuità di uomini e animali. Allarmismi e panico. Effettivologo, effettivologo, effettivologo, effettivologo. Allarmismi e panico, allarmismi e panico. Passano tante informazioni attraverso il televisore, i giornali. Passano tante informazioni attraverso il televisore, i giornali. Televisore, i giornali, televisore, i giornali. Agli esperti, allarmismi e panico. Passano tante informazioni, passano tante informazioni. Televisore, i giornali. Agli esperti, delle informazioni attendibili. Televisore, i giornali. Agli esperti, delle informazioni attendibili. Allarmismi e panico. Tutte le rassicurazioni. Agli esperti. Agli esperti. Tutte le rassicurazioni. Tutte le rassicurazioni. Tutte le rassicurazioni. Tutte le rassicurazioni. Tutte le rassicurazioni. Tutte le rassicurazioni. Agli esperti, tutte le rassicurazioni, allarmismi e panico, televisore, i giornali, televisore, i giornali, tutte le rassicurazioni. Evitare allarmismi, psicosi. Evitare allarmismi, psicosi. Evitare allarmismi, psicosi. Evitare allarmismi, psicosi. Evitare allarmismi, psicosi. Tosse, riniti e podare polmoniti. Evitare allarmismi, psicosi. Tutte le rassicurazioni. Televisore, giornali. Tosse, riniti e podare polmoniti. Agli esperti. Tutte le rassicurazioni. Televisore, giornali. Evitare allarmismi, psicosi. Evitare i luoghi affollati. Evitare allarmismi, psicosi. Evitare i luoghi affollati. Agli esperti. Delle misure per contenere l'infezione. Evitare i luoghi affollati. Evitare allarmismi, psicosi. Televisore, i giornali. Delle informazioni attendibili. Tosse, riniti e podare polmoniti. L'infezione. L'infezione. L'infezione. Unità di crisi. L'infezione. Unità di crisi. Evitare i luoghi affollati. Unità di crisi. E metterti delle mascherine. L'infezione. Allarmismi e panico. Allarmismi e panico. L'infezione. Mascherine. Mascherine. Mascherine. mascherine. It's tough out there. It's a goddamn jungle. Mascherine. L'infezione. Infezione. Allarmismi e panico. Sono stati anche i dormienti, qua. Bene, va bene, dai, per ora, per oggi, per questa settimana basta. Non sappiamo la prossima settimana che fine faremo. Eh sì, 56 minuti dopo la mezzanotte, poi attacca l'automatico, ci taglia sopra, insomma. Vi ricordiamo la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, tuttora in corso, per ancora un po' di tempo. Soltanto 3 giorni e festeggeremo i 43 anni di Onda Rossa. Radio che vive grazie al vostro contributo in tutti i sensi. Compagni e compagne, ascoltatori e ascoltatrici che da tanti anni la sostengono in ogni forma, insomma la radio è un po' un crocevia di quelle che sono le informazioni e le storie del movimento da 43 anni a questa parte. È perciò compito di tutte e tutti noi da questa parte dei microfoni e voi dal telefono, dalle partecipazioni in radio, ma anche in misura economica, dal momento che nessuno e nessuna dei redattori e delle redattrici della radio hanno percepito compensi e percepiscono compensi di alcun genere. Tutto si basa sul lavoro, appunto, di militanza di compagni e compagne. Perciò sostenete la radio, è in piedi, appunto, dicevamo poc'anzi, la campagna di radio abbonamento 30 per 1000, basta andare sul sito, ci cliccate sul banner che sta proprio in testa alla web page di Radio Onda Rossa. Il nostro saluto più importante va a tutti e tutte coloro costretti e costrette a stare chiusi nelle celle malgrado le epidemie. Che colpiscono e colpiscono forte proprio nei posti chiusi, nei posti dove le persone sono in qualche misura relegate per i più diversi motivi. A loro va il nostro abbraccio più forte. Le trasmissioni in diretta di Radio Onda Rossa finiscono qui, vi lasciamo in compagnia della compagna automatica Sonata. Il palinsesto della radio, appunto, ricomincia poi in diretta domani mattina con la lettura delle prime pagine dei giornali, le rassegne stampa, la rassegna stampa cittadini e nazionali, e poi via via tutta la programmazione della radio fino ai cuginetti di Apostasia. Noi ce ne andiamo sotto la luna comunista dopo che Mugwei avrà finito il suo lavoro di stroppiamento, di manipolazione e distruzione di Fatboy Slim. Buonanotte. our dreams, I'll share our dreams under a communist moon.